attenzione, canale 10, c'è qualcuno. Hola. Thank you. ciao. Avanti, chi è? Ora, 1, 2, 3, prova. Sono te, chi può essere? Luca, tu sei? Già, cazzo, boh, cazzo non li conosci più. No, perché c'avevo il telefono, stavo ascoltando una cosa al telefono, dai, non ti sentivo bene. Ascolta, ho messo una capo sulla nuova, questa microfono, come va? Guarda, 1, 2, 3, adesso mi sono allontanato perché ero troppo vicino, dai. E gli ho messo anche il parlascolta. Già, e ti sento tutto sparato, abbasso, non c'è bisogno di uscire tutta manetta. Va bene comunque come capsula. Va benissimo. Cava gara. Questo l'ho adattata al Cobra. Sì, aspetta un attimo, già che devo uscire, guarda che vado a prendere un caricabatterie un attimo. Ora 1, 2, 3, prova, cambio. Ora, canale 10, cambio. C'è qualcuno? Ora, 1, 2, 3, prova, cambio. Ora, 1, 2, 3. Attenzione, 10, cambio. Ora, 1, 2, 3, prova. Attenzione 10. Io sono attento. Ciao. E beh giù. Ciao già. Stavo aspettando qualcuno. Ci sei tu adesso. E va bene così. Beh, come stai? Sì, già sto bene, io gli ho fatto. Ho ripreso la terapia. Adesso ho un leggero brucione. Ogni tanto devo andare a urinare, ma già passa, già passa. È l'effetto del farmaco, capito? Eh beh, certo. Vabbè, dai. È una cosa magari che è messa... bisogna mettere in conto, dopo che si fa la terapia, è normale. Eh beh, certo. Vabbè, comunque... andare... altre due settimane, cioè giovedì prossimo e l'altro ancora, e poi di nuovo in aprile devo fare la cistoscopia per controllo e poi si vedrà più in là. Ma è interessante che stia andando tutto bene, dai. Già sembra che sta andando bene, però sai com'è, bisogna sempre fare i controlli chiaramente e completare tutto il ciclo della terapia che dura, mi sembra ormai 3 anni. Sono già al secondo anno, per cui ne ho ancora un bel po'. Io vabbè giù. Tu chi è? Interessante che stai bene, eh? Già sto bene. Già sto bene. Speriamo che continui così e stare bene poi. E chi lo sa? E tu? Oh, sono rientrato? Ciao. Saluta Giulio. Ciao Giulio, salutone. Avanti già. Io già sto bene giù, grazie a Dio la gamba si è messa a posto bene, sto facendo le scale tranquillamente, cosa che prima facevo un po' di fatica a farle, me le faccio anche correndo le scale, saremo a 2 a 2. Infatti, hai visto, perché proprio per guarire bene, completamente, dovevi fare un lungo riposo, solo che tu magari dovevi andare a lavorare e giustamente stando in piedi c'era il problema che si sa, però va bene così, dai. E tu pensa, mio fratello, oltre a quella, a quell'intervento che hai avuto tu, l'ha fatto anche lui sta bene, nella gamba sta bene, ha fatto anche il braccio, la spalla, l'avevano fatto tutti i buchi nella spalla, e il dolore al braccio gli è passato lo stesso. Adesso purtroppo c'è anche l'altro braccio da fare, perché questo dolore ce l'ha anche nell'altro braccio e probabilmente dovrà essere operato anche all'altra spalla. Però c'è l'artrite, c'è. Oh, lì si erano rotti 2 o 3 tendini della spalla, forse con lavoro, quella ne so, boh, sarà quello, sarà la posizione, perché lui faceva i verniciatori di macchine, no? E sai, quando levigavano eccetera, era un continuo muovere il braccio e gli si erano rotti tre tendini e aveva dolori atroci, aveva, e dunque l'hanno dovuto fargli l'operazione, però adesso sta bene, sta guarendo completamente in quel braccio lì, però dice c'è anche l'altro adesso, quindi si sta sentendo il dolore. Ciao Luca. Mia, ciao, dai, un attimino che io già sono qua, comunque ascolto, devo controllare un telefono, dai. Perché non mi sta leggendo la SIM, un attimo, dai, riprendete, adesso qua in ascolto. Ehi, alla vedi. Occhio, che telefono è? Una 40, no, l'avevo venduto io questo qua, sto qua, ha preso acqua. Vabbè, se vuoi leva, non è subacqueo. E dillo a Edro. Così non deve fare subacqueo con i suoi esili, bambù. Si è preso l'acqua, glielo credo. Oh, a qualcuno gli è caduto anche nel suo gabinetto, perché ce l'avevo nella taschina della camicia o della maglietta, come si è abbassato, era davanti al gabinetto e gli è caduto nel suo gabinetto. Sicché già, si può immaginare. Magari aveva già fatto la pipì, già un bilito vario, no? Può essere che magari avesse fatto già anche la pipì e che adesso no, ma forse stava per iniziare o forse stava abbassando la tavoletta, cosa ne so, il fatto sta, gli è scivolato dalla tasca e gli è caduto in ammollo. E qualcuno è andato a pescare una volta e gli è caduto nel molo tutto dalla tasca della camicia. Sì, perché può succedere così, uno quando se lo mette nella camicia così nella taschina della camicia o della maglietta, lo stesso, tu non ci pensi, ti abbassi e ti scivola via, e se sei al mare è chiaro che ti cade a muglio, e cosa ci vuoi fare? Cosa deve succedere nella vita? Mai se venga un telefono, cosa vuoi che ti dica? E infatti, quando non si buono si buono. Io vorrei cambiarmi gestore perché il mio telefono nelle conversazioni cade la linea anche 3-4 volte, mi devono chiamare in una conversazione con un amico, mi deve chiamare 3-4 volte. Che gestore hai già? Guarda Fonciolo. Guarda, vai in verità, mettiti lì Camobile, io pago per 70 giga, minuti limitati, messaggi limitati, 5,99 euro. Sì, lo so, però il problema mio è trasferire tutti i numeri di telefono e metterli dalla SIM al cellulare. Tu lo sai fare? Te lo fanno loro. Cosa? Te lo fanno loro. Sì, ma mi ha chiesto 20 euro la media vuoto per farlo. Se no, non mi ha chiesto niente. Io, il passaggio costa 30 euro. Col primo mese pagato, io praticamente dovrò ricaricare il 4 di aprile. 6 euro al mese va bene. Dove l'hai fatto? Alla fine di verità, dove c'è il distributore di fronte, prima c'era la Vodafone lì, adesso ci sono questi qua. E insomma, quanta gente è passata, Marina, la mia compagna, il figlio, io, ma un po' di gente c'era. Se te lo fanno loro il trasferimento del numero di telefono, va bene. Sì, già, sì. Sì, vabbè, quello non sarebbe così gravoso, già, il numero di telefono, perché io me ne sono tutti rifatti, per cui che problema c'è? Stavo dicendo, anch'io, io Vodafone stesso, sì, ma in effetti Vodafone è una mezza porcheria, non va bene, hai ragione che alle volte cade il contatto così senza terminare la telefonata, già lo so, sì. Però sono anche un pochino fastidiosi, nel senso che a me mi mandano dei messaggi, mi telefonano durante il giorno 3-4 volte, sempre Vodafone, sempre per il fatto della promozione. Allora cosa faccio io? Appena che vedo che è Vodafone, prendo e chiudo la telefonata, perché non mi dà fastidio Vodafone. Allora loro mi mandano il messaggio, allora io prendo e lo cancello il messaggio. Io pago 7,90 euro internet, posso usufruire di internet, 50 giga e più le telefonate, i messaggi eccetera, praticamente non li consumo mai perché ne ho roba di 1000. Vai già. Io mi sono fatto dare un mese gratis, mi hanno dato Infinity, praticamente è tutto quanto illimitato, capito? E praticamente ho detto che vuol vedere se tipo, perché io prima di, allora loro mi hanno fatto fare questa opzione qua, prendere questa offerta per i oltre 60 anni. E a me mi sembrava una cosa, diciamo, conveniente, 16 euro, però c'avevo un sacco di roba. Poi da quando ho questa offerta qua, non mi sta chiamando bene il telefono. No, ma deve esserci qualche problema con la Vodafone. Perché ripeto, anche a me mi succede tante volte, stai parlando e si interrompe, o perlomeno senti qualcuno, ho telefonato e non mi hai risposto, ma io veramente non ho ricevuto telefonata, come facevo a risponderti se non ho ricevuto telefonata? E che ne so, forse la Vodafone dovrebbe rivedere un pochino le sue cose, i suoi impianti eccetera, le sue piattaforme, non lo so com'è, so solo che succedono queste cose, boh. Poi da poco abbiamo fatto un'altra scheda, Iliad 7 euro mi sembra, anche di meno mi sembra, per il telefonino di mia moglie, e va benissimo, anzi per il tablet addirittura, perché il tablet può funzionare anche da telefono. Io ne ho due, uno è a consumo, cioè la scheda a consumo, no? Il telefono è più consumo e via, mentre l'altra invece è mensile sempre, però pago 7,90 euro e ho internet su quella scheda e più, come ti ho detto, 1000 telefonate, 50 giga eccetera eccetera. No, in quanto a quello già io mi trovo bene, solo che alle volte c'è questo problema che stai dicendo tu stesso, che ti si interrompe così senza nessun motivo. Boh, vabbè, comunque, riprendi. Sì, succede anche a me, Giulio, succede anche a me, che mi dicono che mi hanno telefonato e io non sento la telefonata, guardo a vedere se la sono lì a posto, se tutto a posto, e non sento la telefonata, non capisco perché. È il mio, c'è una canzone che praticamente esce fortissimo quando ti telefono, senti da tutte le parti. No, a me non mi risulta proprio, a me non, beh, no, io a me non lo sento, se non lo sento io, cosa dovrebbe, poi se controllo mi dovrebbe risultare, poi non risulta proprio la telefonata, il problema è anche quello, quello che ti dica, infatti qualcuno mi aveva detto, ma ti ho telefonato e non mi hai risposto, come ti hai risposto? A me non mi hai telefonato tu, io non ho nessuna telefonata tua, sì, controlla, e controllo, vado a controllare, non esiste nessuna telefonata, nessun numero, e c'è pure squillato, ma tu hai squillato, ma io qua, se io non lo sento, evidentemente la cosa non funziona bene, se poi si è squillato, non lo so, qual è il problema, so solo che nemmeno la telefonata, perché almeno se ci fosse stata la telefonata avrei visto il numero, avrei chiamato io, no? Invece niente, proprio non esiste proprio il numero o già. No, a me mi risulta, però il problema è che magari io non lo sento, non so il perché, perché il mio fa, c'ha quella voglia di ballare con reggae in spiaggia, quello c'ha quella canzone lì ed è un bel forte. Sì, ma anche per mio il solito squillo normale che sembra un telefono di casa, di base, ed è fortissimo, per cui lo devo sentire per forza, perché intanto perché ha anche la vibrazione, perché se ce l'ho in tasca sento anche vibrare, primo, e poi mi squilla anche. Ma se poi non arriva lo squillo e nemmeno la vibrazione, come faccio a sapere chi è che ha chiamato, se effettivamente mi stavano chiamando? Boh, non so cosa dirti, cioè, deve esserci qualche problema lì nella piattaforma Vodafone. Vabbè, comunque migliorerà, se no ci vuole poco, mi ha cambiato. Questa prima avevo cose mobili e l'ho cambiata, cose mobili, avevo la scheda trimestrale, 10 euro al mese, e anche lì avevo tutto, compreso internet eccetera. Hanno incominciato a fare gli imbecilli, volevano aumentare, ho fatto prima tutto, ho preso e ho cambiato numero, ho cambiato gestione. Vai già. Perché bisognerebbe fare così, quando non conviene più cambiare gestore e basta, solo che si è limitato molte volte nel trasferimento delle cose, hai paura di perdere magari i numeri che ti interessano, se no ti tocca accoppiarti tutti in un quaderno, perché bisogna saperlo fare quello lì, trasferire nell'altro telefono chiave, poi c'era scritto trasferimento da SIM a telefono, bastava che cliccavi lì e ti trasferiva tutto da solo, questo è un po' più difficile. Ma io intanto telefoni ne ho altri, no? E dunque quei numeri ce li ho anche nell'altro telefono precedente a questo, ad esempio, no? Tutti i numeri, salvo qualche numero ultimo, ma c'è sempre. E poi a me, se tu mi fai una telefonata, per dire, a me da fare anche sul tablet, il discorso è questo, per cui non c'è problema, io non li perdo mai i numeri, capito? Perché quando tu mi telefoni mi ricevo ho anche il numero sul tablet, e poi quando, poi magari se è una persona che non mi interessa, allora non lo chiudo e basta, però di solito è così. Ad ogni modo io tutti i numeri ce l'ho nel telefono precedente, cioè che quando mi occorre un numero guardo quello per dire ce l'ho, non c'è problema, non lo prendo mai, capito? È un casino. Però tu se ti telefono all'altro e non c'è il numero non vedi che ti sta chiamando, capito? Quello è successo quello anche, te lo sto dicendo, è successo quello, non molto spesso, però già è successo, che mi dice, mi hanno telefonato, gli ho chiamato e non mi ha risposto, squillava, ma veramente io non ho sentito nessuna telefonata tua, per cui non so come devo fare a risponderti se non c'è nessuna telefonata. Controllo il telefono e beh, non c'è niente, guarda tu, quando con lui stesso ho controllato non c'era niente, per cui come faccio a rispondere? No, ma c'è, deve essere qualche problema, la Vodafone ha qualche problema sicuramente, guarda, non so da che cosa può dipendere, però qualche problema ce l'ha la Vodafone. Sarà da ripetitore sicuramente, stanno tentennando, io l'ho chiamato 5-6 volte, adesso basta, gliel'ho detto, se non risolvevano il problema subito io me ne andavo dalla Vodafone. Siamo andati anche con Marco, con mio figlio, siamo andati lì a dove c'era Città Mercato prima, dove c'era Auchan, e lì in fila ci sono Vodafone, Iliad, eccetera eccetera. E gli ho detto, se mi sapeva trasferire i numeri, io gliel'avrei fatto subito. Invece ha detto che non lo sapeva fare, quello che c'era, che lui l'ha detto alla vendita e basta. Guarda, già, io non ho detto niente, la Vodafone, sono sincero, se l'altro non lo so cambiato. Infatti mi è arrivato il messaggio che dovevo caricare il 10, 25 euro al mese pagavo io, 25, se mi riporti tutto limitato. A parte che è troppo, c'è gente che paga, mi sa, 10 euro così, o 8,90, se non mi ricordo, tutto limitato. Questa a me mi fa pagare 25 euro, ma ammazziti, che me ne sono andato. Adesso aspetterò, quando mi chiamano, vediamo cosa mi propongono. La interrompo io stesso, schiaccio il rosso e non se ne va da più. Allora loro mi mandano di nuovo il messaggio, mi mandano, e io cancello anche il messaggio, non mi interessa a me la loro promozione, cosa mi interessa? E anche perché questo numero, cioè questo Vodafone non è che ce l'ha molto, no? Il numero è sempre quello, perché da gestore a gestore è sempre lo stesso numero che ho richiesto. Però io con loro ho questo tipo di contratto, No, non vedo la ragione per quale motivo io la devo cambiare. Però molti mi dice, però ti danno un mese gratis. Ma che cosa me ne frega a me di un mese gratis? Che poi ti devo pagare 15 euro al mese, praticamente il doppio di quanto sto pagando adesso. Non lo so, Guido, dimmi tu se mi conviene. Dai, Luca, dai già. Che si gestori. Adesso c'è molta concorrenza, chi ci guadagna siamo noi, dobbiamo solo saper valutare sia la portata, perché se non riceve da certe parti non va bene, no, devo ricevere bene, se no è inutile che spendi di meno per poi non ricevere. Ma c'era un periodo che nella scheda quella consumo non lo usavo, perché quella non lo uso mai, io ne ho due numeri, no? E dunque uso quella che posso fare tutte le telefonate, l'altra invece è a consumo, e mi sparivano i soldi così. Aspetta, ma se c'ho per dire, non so, 20 euro, e tutte le settimane ci mancavano 2, 3 euro, ma per quale motivo? Allora cosa avevo fatto? Avevo telefonato, e dalla volta non sono più spariti i soldi. Sono rimaste, rimangono sempre quelle. Adesso intanto io controllo, se per caso dovessero sparire di nuovo i soldi, un'altra telefonata, e se ne rompono le scatole, se prendo, cambio gestione di nuovo. O te credi che te la darongano, ma nemmeno ci penso. Ma infatti. Loro, capito, fanno quello che vogliono, poi ti tolgono un po' di soldi, non si capisce perché. Fai la carica per dire di 16 euro, subito dopo vai a controllare e mancano 3 euro. Allora la storia qua è un po' l'onfia. Ma sai quante volte ho dovuto chiamare per 2 euro, 1 euro? Ma da chi la sa di aerei? Scusi, perché gli mancano questi soldi? Facciamo una verifica, guardi che gli ho rimborsato i soldi, ma è a cattivi che mi rimano gusti, tutto è limitato, i soldi non vedevano sparire, tutto è limitato, poi sono le chiamate ai telefonini, i telefoni di casa, fuori non ci chiamo, ma anche se chiamo in continente è sempre tutto limitato, all'estero sicuro che non ci chiamo, cosa mi vanno a sparire i soldi così? Ma uno schifo, lavora per uno schifo veramente, dicono che è buona la Wind pure, comunque questa... Guarda, l'ho fatto mercoledì la mattinata, oggi è giovedì, è così, è giovedì. E l'ho usato, 70 giga, adesso me ne sono rimasti, adesso lo dico subito, Mi sono rimasti 69 giga, qui con 66 megabyte. Pensa a tu. Guarda, micidiale, e poi io poco li consumo, perché ho la rete a casa, la rete fissa. E poi quando vado alla marina non sa che c'è la rete fissa, ma comunque mi bastano. Poi 6 euro al mese vanno più che bene, lo mettete in culo ogni mese. Infatti quello è lui. Ma io l'ho vista, ci sta marcato 100 giga, sia l'IAD sia l'altro che quello della TIM. Ce n'è uno che dipende dalla TIM. Questo non lo so dire già. Comunque ci sono altri gestori, per esempio c'è questo qua, l'ICA Mobile, poi c'è un'altra, un altro nome strano, se vuoi ti puoi mettere anche quella 15 euro, sempre l'ICA Mobile, tutto è limitato, 15 euro, cazzo ti pagavo 20 zinco, e in più non paghi l'euro, cioè tu vai al tabacchio per 6 euro, non paghi la commissione, mi capito? Ho capito. Ma adesso vedo di farmi un pensierino, perché adesso c'ho problemi, perché deve arrivare la mia ragazza, deve andare a prendere le cose, magari la linea non me la attivano subito e non so come fare, però dopo vediamo un po'. Io sono Mastori, vai, risparmi un bel, poi va bene l'ICA Mobile, prende. Guarda, tu pensa che la volta fu in campagna non mi prendeva, la campagna da 25 dei genitori, invece questo qua prende, vedi tu. Vuol dire che va bene. Ma solitamente questi che si attaccano alle altre compagnie, che di solito sono le case madri, sono TIM, Vodafone, fanno pagare di più, noi adesso stanno facendo pagare di meno, perché loro ti fanno pagare quello che ti farebbe pagare la casa madre più, tanto che devono guadagnare loro, invece adesso non è più così. Adesso che ti dica, casino, no, io 25 euro al mese sono tanti, poi manco le consumavo già. E ho sempre attaccato qua a casa di Marina, vabbè Marina c'era da poco, comunque la casa era sempre connesso. Vabbè, sempre con le sue bugie, non è vero, no. Usavo quelli perché ci avevo limitati, non manco adesso, vabbè. Poi manco li consumo alla fine, ma cosa, non guardo pochi video io, sta su Facebook così, faccio qualche diretta, ma niente di particolare. Ma ascolta, se tu c'hai la wifi a casa per dire della Vodafone, devi inserirgli il numero nel telefonino, così il numero del, che c'è nel modem. Non ho capito, scusa, ripeti? Ho detto, se tu c'hai la wifi a casa per dire della Vodafone, ti metti lì del telefono mobile, quando lo devi usare nel wifi, devi ripristinare anche il numero di matricola che c'è nel modem. Ma non ti comprendo già, La password devi impostare, che c'è dentro nel modem. Allora vabbè, già mi è capito tu. Store, entra Store, ciao, buonasera. Buonasera, ciao Luca del Monte. Come la banana. Ehi, allora, come la, io c'ho la banana del monte. Ma era giustica, una più del diavolo. Hai capito Gianni? Sì, c'è quel numero segnato lì del modem, già lo so, io l'avevo già segnato, ho detto se lo devo rimettere, quello lì volevo sapere. Cambiato telefono, sì. Io mi aggancio alla linea di casa, così non consumo i giga del telefonino, capito Gianni? Se tu non ce l'hai quello, ti consumi i giga. Sì, già lo so, anch'io faccio così. I dati mobili li metto solo fuori quando vado in macchina e metto anche il Bluetooth perché c'è Bluetooth in macchina. Però quando sono a casa uso la wifi. La domanda mia era se dovevo rimettere il numero oppure se bastava quello che avevo già messo. No, devi sempre interfacciare il telefonino nuovo, va sempre interfacciato col modem di casa, no? È ovvio. E dunque se tu hai messo la scheda nuova, è come se avessi comprato un telefonino nuovo. Ok, dai, va bene. Avanti, Tore. Fatto così, ciao Giulio. Sai così, è come se fosse che hai cambiato o scheda o telefonino. Sempre tornare a impostare lo devi. Mai compreso? È così. Tore, come mi ascolti? Questo microfono l'ho finito stasera, ho cambiato una capsula ed è l'M93, come va? Un po' metallica rimane, per due giumiro, rimane un po' metallica, poi negli altri non lo so, però nell'apparecchio mio mi sta arrivando un po' metallica. Ok, vabbè, interessante che si senta. Ho provato a mettere questa capsula perché l'altra era difettosa. Beh, è buona, come radio è buona e così, però se rimane un pochettino metallica, ma la si compra in diverso, a Puglia. Ciao Tore! No. Andiamo. Ascolti, sì. Sì, che ti ascolto, come no? Cioè, dimmi. Cosa ti dico? Tutto come sempre, nessuna novità, niente di particolare. L'unica cosa che è cambiata è che ho già ripreso il proseguo della terapia e via, quella che devo fare sistematicamente ogni certo periodo, capito? No, io sono fuori da tutto quanto di questa cosa. C'ho tutto a ganda giugno e a ganda settembre, poi basta, non faccio altro. Anch'io a periodi addirittura di 6 mesi in 6 mesi adesso. Prima era di 3 mesi e adesso sono passato ai 6 mesi da una terapia all'altra. E il tutto diventa 36 mesi, diviso qui a praticamente 24 mesi e per cui ancora ne ho un anno. Ne ho un anno. Si fa tutto entro in 6 mesi, come c'ho io nelle cose, nel diabete, ogni 6 mesi va a girare visita. A giugno c'ho quella cardiologica, ti devo va e basta, non va giù altro. E tu già, bene, stai andando, sì. Gianni. Ah Gianni, direi che non avevo un microfono. Il microfono si è copiato. Gli ha cambiato la capsula, gli ha cambiato. Ma si sente bene comunque. Certo, non è come quando mette il Sadelta, il Sadelta e l'altro microfono, una tagubba, una tagubbetta. Gianni, sei rientrato? L'hai innamorata, l'ha telefonato la mia storia. La ragazza l'ha telefonato e dunque l'ha bloccato. Andiamo a vedere. Luca, ci sei ancora? Ci sono sempre, sono qua. Aspetta un attimo, come sta leggendo la micro SD il telefono? Un attimo, già sono qua. La micro SD, la sta piazzando nel telefono? Non la sta leggendo, ma come di foto, cazzarola. Deve recuperare dal telefono, ce l'hai nel telefono, ce l'hai, la memoria ce l'hai dentro la memoria del telefono, di quell'altro dopo ce l'ha visto. No, non è uscito. Eccola, poi già me la sta leggendo, è come se dal computer, ma il telefono non la sta leggendo adesso. Sì, andiamo bene. Oh, io ma ho nel computer qui sono piazzato Windows 10 e io era Beggio, ma invece di andare. Ma non stai usando la solita radio, adesso stai usando l'altra radio perché sei molto più basso di segnale. Aspetta un attimo, sì, sto usando la. Questa da 4 watt sto usando. Ok, allora già va bene, dai. Già va bene, Tore. Bene. Via. Sei rientrato Gianni? Stavo cambiando apparecchio. Ok. Non ti piaceva più l'altro. Davvero, comunque già va bene anche quello che avevi poc'anzi già, però no, è insuperabile il Sadelta. Quando metti Sadelta, quella è la tua radio vera. E questo come va? Guarda, questo non è quello nuovo. Va bene, si sente lo stesso, non è problema. Però non è certamente il Galaxy con lo Sadelta, No, ma nemmeno vicino. Adesso il Galaxy c'è un altro microfono, cioè super psychic. Ho capito. Il turner solito, dai, praticamente. Il super, sì, ho capito già. Sì, quello cromato per intendersi, dai. Comunque c'è anche il Sadelta, c'è tutti e due. Quando uno lo metto il Sadelta, uno lo metto l'altro. Ok, sì. No, ma quando metti il Sadelta è una bella radio, bella. Insomma, la tua radio è proprio la tua voce originale, perfetta, fortissima tra l'altro, è chiara, molto bella. Va bene, dai. Dai, Tore. Ehi, già così. Giambo, c'è il giambo apparato, mi dico il buco delle visioni mio. Come mai? Guarda che l'antenna del televisore cambiatela, ci sarà qualche cosa arrugginita, ad esempio il miscelatore o il capo scoperto e c'è un po' di ossido, solo così e il problema è quello, Ottore, è sempre quello, dipende da te, o centralizzata ce l'avete lì? Oh, è il televisore mio, è in camera mia. Il capo dell'antenna TV sotto a quello delle cose, dell'apparato. Ho capito. E io guarda, nello stesso tavolino ho il televisore e più la radio. Non succede niente. Sempre dipende dall'antenna sempre. Va bene, dai, vai già. Questo qua è Giulio, il Ruiz è quello tre strumenti verdi, ce l'ha presente? Sì, ma già va bene, lo so, va bene. Adesso magari è troppo forte anche, e dunque si sente molto anche il respiro. però già va bene, ma non c'è paragone comunque cosa detta, non c'è paragone per conto mio, perlomeno a me mi piace più quell'altro, poi ognuno ha i suoi gusti e dunque e ognuno ti dirà la sua. Dopo ti faccio sentire il Galas con il super Sidekick. Sì, magari quello va bene perché essendo un microfono di 45 anni fa, 40-45 anni fa, forse anche di più, forse anche 50, e vanno bene, quel tipo di microfoni, sono i microfoni famosi americani che generalmente vanno su tutti i baracchini, vanno bene su tutti i baracchini, anzi devo dire che quando il baracchino riceve che non ha bisogno del microfono per ricevere, addirittura funziona con 3 contatti, non con 4, ma addirittura con 3 contatti, usandone solo 3. Io lo so perché ce l'ho avuto anch'io e ce l'ho sempre, io il tandem ce l'ho sempre, solo che dovrei ripristinarlo perché non mi funziona, non capisco cosa, però non è successo niente, anzi a dire la verità mi era caduto una volta e probabilmente la capsula che se n'è andata, sarà quello, però il microfono ce l'ho, c'è per quello anche questa Delta, anzi ne ho 2 di questa Delta, ho quello Master Pro e l'altro quello normale, quello sa Delta normale, con le fiancate rosse e col gambo cromato. Certo, vabbè, io c'ho quello col braccio lungo di quel che avevo, ma non mangiavano bene, sa Delta sono dei miei microfoni, caspita, io mi ricordo che c'era quello che sembrava il raso di una barba, ce l'aveva Roberto Meccanico, quello, me lo ricordo bene. Non so quanto era forte. Il Sadetta è un grande microfono, è eccezionale veramente. Poi se hai la fortuna di incocciare la timbrica giusta per quel microfono, guarda, è praticamente è quasi insuperabile. Per cui non c'è problema. Poi vanno bene anche per le radio professionali, non solamente per i baracchini. Avanti Tore. Io ve devo lasciare. Ciao Gianni, ciao Luca del Monte, ciao Giulio, ci risentiamo le prossime, ok, ciao. Ciao Tore, ci sentiamo, buonasera. Ciao Tore, grazie per essere entrato qua a scambiare 4 chiacchiere, alle prossime, ciao Tore. Sì, ma è così o già, dunque, anzi no, Luca, vai a salutare Tore. Veglia, dai. Ciao Tore, salutone, alle prossime. Dai, già ho risolto la micro SD, l'ho levata, poi ho fatto riavvio del telefono, c'è a posto. Adesso qua sul caso, perché quella lì è da 32 giga, avanti Gianni. E va a covare, là. Così vuole male Luca. Cazzo, mi avevo chiamato. Queste qua. Ne avevo già piattato un'antenna lì, vabbè qua vicino a casa, siamo piattata loro, non vi viene un canale, sono a 2 e l'ho risolto io, poi ci ho fatto un bagare. Vabbè, non è che uno pagare sul tetto. Vabbè, gli ho chiesto proprio giusto così, due soldi, e poi detto dai fare il pianto quanto mi chiamo. E praticamente non avevo uno segnale, ho fatto con lo strumento, ci ho messo, non dico un attimo, però ho fatto prima di lui, con il mio altro segnale abbiamo messo le antenne in quella posizione lì e a posto. Tu vuoi essere lo strumento per sapere dove riceve il segnale, così? Sì, perché lì non me lo dava, non me lo dava in nessuna maniera. Se tu la metti in una posizione tipo dritta, no? Perché se monteone lì non mi dava segnale. Allora abbiamo forzata lì verso da destra verso sinistra, poco a posto. Ho fatto la scansione dei canali e gli ha dato 234 canali. Prima ne pigliava 3 o 4. Ma io non so se devo comprare del code, la qua non la voglio comprare. Sì, avete tempo già c'è tempo, non è un problema quello. Io dico di non comprarlo ancora, secondo me, perché poi a fin fine con tutte queste modifiche che stanno facendo bisogna vedere qual è il miglior tipo di decoder che ci vuole. Poi immaginate, io ne dovrei comprare 5, non uso Guio, però non ne compro nemmeno uno adesso. Magari fra un anno, quando ci sarà qua G5, allora magari mi giambuli delle persone, che cosa? Staremo a vedere, dai. Non è un problema. Sì, Duca, evidentemente non entrava, ha detto che c'era qualche ostacolo davanti, allora l'hai girata ed entra nel riflesso, certo, è possibile così anche, però bisogna vedere tutto il resto dell'impianto che ci hanno fatto. Mi sta dicendo che se l'hanno fatto loro, chissà che faticcio hanno fatto. Vabbè, dai, comunque hai fatto bene, è chiaro che ti devi far pagare, se fai un intervento così è chiaro che ti devi far pagare, ci mancherebbe altro, Luca. Registrato il break, per forza, mi ha fatto un prezzo proprio da amico, giusto per, comunque mi hanno già chiamato altre volte, avanti il break. Ciao Eugenio. Ah, Bruno, sì, ciao Bruno. Senti, te la voce di Eugenio, vai, stasera, ma la voce truccata hai oggi. Spacca, i baracchini, spacca, non è Eugenio. Ma no, non stai uscendo male, basso, ma comunque, la voce è simile a Eugenio di Porto Torres. E dunque, perlomeno ho scambiato per Eugenio, nel modo come parla, come alle volte entra lui e si entra tutto allo stesso modo. Sì, il doppione di Eugenio. Avanti Gianni. Ciao Bruno, buonasera. Questa è una radio vintage, come sto uscendo? No, è la radio che mi interessa più che altro, dai. Sta andando bene di radio, voglio sapere, perché questo microfono per sistemarlo ieri ho avuto tutta la sera, un casino, mamma mia, c'aveva tre fili poi alla fine. Sicuramente c'è qualcosa che non va, si innesca è perché c'è qualche falso contatto. Se ti interessa, sto mandando un apparecchio, un microfono amplificato, vieni, te lo provi, completo di staffa, cavetto, di alimentazione, mi dai 70 euro, te lo porti via, è un Mobicom 200 canali. Scusa giù, nel senso ho parlato sopra. Bruno, non so se hai sentito, mi hai sentito sicuramente. Ho detto che sto vendendo un apparecchio, un Mobicom, se ti interessa. 200 canali, compreso di staffa, capo di alimentazione e microfono amplificato. Ok Bruno, allora vero, è Mobicom, è BB40 praticamente, è vero Luca, se ricordo bene, si può chiamare anche così, BB40. Aspetta, ha rilasciato a Giulio. E come mai ti vuoi vendere quel baracchino lì? Quello va bene, lo stesso Luca. Facciamo di voto giù, avete parlato uno in due con Gianni prima, dai, perché ha rilasciato a te, ripeto Gianni. Faccio niente giù, no, è lì, non me ne faccio, è nuovo, è abbastanza nuovo l'apparecchio. Lo 300 canali, frequenzimetro, c'ha, carino ma parecchio, però non mi riporto nulla. Non mi interessa, no? E lì, poi qua c'ho il 3009, il Typhoon, giù c'ho il Typhoon, non facciamo il vostro, nulla. Avanti Gianni, stavi dicendo? Ho detto, qual è quello che ti avevo fatto prendere io modificato? Guarda quello, ma non è quello. Ah, non è quello modificato, è quello che si aveva fatto lui. Quello l'avevo dato a coso, a Luca di Monterurra, ma cazzo, 20 anni fa. Vabbè, io ci ho molta memoria. Cavagata. Va bene, dai, adesso questo l'ho fatto girare, adesso attacco il gas. Va bene, va bene. Sì, ovviamente anche il MB40 va bene, no? Non c'è problema. Non c'è problema, Luca. No, io ormai ne ho solamente 3 e basta, anzi, e proprio poi do anche questi. Sarò fuori di uno, poi gli altri, cosa me ne posso? Non mi serve. Ne avevo 9, ne avevo. E li ho fatti fuori a tutti quanti. Poi, per carità, non ne voglio più tenere. Non devi fare il team a prendere un capo con tutte quante queste, perché poi è sempre la stessa cosa, per me uno vuole l'altro, per cui me ne tengo uno, due, boh, basta, finisce lì. Avanti Bruno. No, ma esce meglio, no, in quanto a quello già ti sento bene, Santiago 8 mi stai arrivando, la radio è 5, però non è molto forte perché giustamente il microfono è quello che è. Sì, 50-24, ce l'ho anch'io quello, se toccai 50-24 ce l'ho anch'io, ma se dovesse capitare rubo su pure, non me ne faccio niente, cosa che se ne frega, mi tengo solo l'HB23, mi tengo. E poi faccio fuori, vabbè, quello è già promesso, il cover è già promesso, quello dunque non è che posso decidere diversamente, quello è già promesso e basta. E poi già c'è lo baracchino, non è un problema, poi manda via un vagone, la via, dovevo stare sempre posta a sposta, ma che me lo vado, ho fatto fuori tutto, boh, ho fatto fuori tutto. Gianni, ho visto su subito.it la Mantova Turbo, 220 euro di seconda mano, questo qui lo sta vendendo, ma te ne immagini? Sono matti, dai, sono matti, non esiste vendere con l'antenna, costava 135 mi pare. Oh, usando il Mobicom, 1, 2, 3, prova, mi sentite? Sì che ti sento, come no, a voglia, va bene, sì, 145 costava già, per cui, sì, ma in effetti, ma per dirti no, caspita, e io tempo fa avevo deciso di vendere 100 euro, poi alla fine ho fatto, ma che me lo vado là, non mi servono 100 euro, me la tengo e basta, e dunque, adesso ho visto che questo qui sta vendendo addirittura quello, la Mantova Turbo 220 euro, ma veramente macco, non è possibile. Vabbè, ho visto anche una Mantova 5 più 30 metri di cavo RG 213, 80 euro, chissà se lì funziona bene, comunque succede anche questo, però ho aperto la pagina, dice questa pagina spiacente, non siamo riusciti a trovarla, no? Volevo vedere da chi era venduta questa antenna, ma mi sembrava un po' strano, 30 metri di cavo più o meno di RG 213 più la Mantova 5, 80 euro, qui c'è la blu più terra terra, eh? Va bene, dai, avanti, Luca. Dai, allora, io sto per farlo girare un po'. Già va bene, va bene, mi copro una pesticata, sta carino un apparecchio, ma non mi riporto nulla, in chili. A me piacciono i piccolari, tipo 2009, 2006. che sì, beh certo, lo so, il 3009 anche a me piace molto il 3009, che poi ci sono apparecchi che sono sempre il 3009, però vengono chiamati con altri nomi, ce ne sono almeno 14 ne avevo visto di baracchini, che in realtà sono tutti quanti 3009, però cambiano a secondo della ditta che li sta vendendo, si fa fare il logo personalizzato, si fanno fare, e dunque, però il baracchino è sempre quello. Vabbè, avanti Bruno. No, quello non lo do perché era un regalo, dunque no, quello no, assolutamente. Sì, ogni tanto già lo metto in funzione, ogni tanto sì, però chiaramente no, non posso lasciare indietro quello che sto usando adesso per la KB23, questo è normale, no? Però funziona bene, la KB23 funziona bene, ha una radio fortissima, proprio di lusso, alla grande, ma anche il 5024, sempre quello, della Tokai, anche quello funzionante, non c'è problema. E poi ho anche il Cobra 139, quello lì è da stazione base, grande, tipo pianoforte, però quello è promesso, dunque quello, vediamo un po' cosa ne farò, dai, riprendi Bru. A Buglia se me lo ricordo, e proprio i tre canali io ne dovrei avere uno, addirittura un watt, tre canali un watt, ti puoi immaginare, con l'antenna lunghissima di quella cannocchiale, ce l'ho senz'altro, non mi ricordo dove l'ho messo, però ce l'ho, un portatile così, un watt, ti puoi immaginare, e mi ricordo che con un watt addirittura la città arrivavo anche nei paesi abbastanza lontani, ma questi sto parlando degli anni 70, 70, dopo il 72, eccetera, eccetera, e riuscivo ad arrivare molto lontano con un watt, oggi no, oggi lettere e satolo di segnali, per cui quello si nemmeno so leggere come fai gli altri segnali che ci sono in aria. Avanti Gianni è caduto dove il cabello, Gianni. Sì, ripeto, io mi ricordo, allora avevo anche la Vespetta, avevo messo l'antenna sul fango della Vespa davanti, e la Vespetta davanti sul marciapiede, davanti a falegnameria, parlavo addirittura con Villanova Monteleone, con un watt, ti puoi immaginare, e Villanova Monteleone è anche più lontano di Alghero, per cui ti puoi immaginare. Ma ripeto, in quei tempi era possibile, oggi non arrivi nemmeno a casa con un watt, per dire, dico solo se ho per dire Sennoli o per dire per Porto Torres, se ho qualunque altro, o addirittura Plata Mona, e difficilmente ci arrivi. Però è così, d'altronde i tempi sono cambiati e ormai con tutte le radio private, con tutti i telefonini, con tutte le televisioni che ci sono, figurati se c'è spazio per una apparecchiatura che ti dà appena un batter di uscita. Oh, ma vai. Avanti Luca, ci sei ancora? Luca, Gianni, sei rientrato? Sì, a me avevamo suonato in campagna, sono andato a rispondere. Ah, ho capito, ho capito, ma dagli la chiave a chi ti viene a trovare, dagli la chiave, così entra direttamente e così non ti devi alzare tu a rispondere. Va bene così come sistema, no? Quello è vero. Questo è